quel negozio che è storico per Coop è stato caso pilota a livello europeo nell'ambito di un finanziamento particolare sull'efficientamento energetico di strutture commerciali, ecco. Quindi sempre per dire quanta ricchezza, quante cose note e non note ci sono a Renord e dintorni, ecco. Però sì, lì abbiamo fatto un accordo specifico in modo che loro riqualificassero il negozio e ci fosse una partnership per migliorare. Visto come è cambiata la galleria e si è creato il nuovo ingresso col nuovo parcheggio a fianco. E abbiamo aperto il centro La Fenice. Abbiamo scelto il nome La Fenice perché, visto la zona in cui abbiamo deciso di inserirci, perché eravamo consapevoli del fatto che ci saremmo inseriti in un ambiente commercialmente instabile, sicuramente più per un lavoro sociale più che commerciale, abbiamo pensato alla Fenice perché la Fenice risorge, rinasce e quindi abbiamo pensato di dedicare a lei il nome di questo spazio proprio per una questione di rinascita del luogo e dello spazio. Da lì abbiamo sempre lavorato quindi su progetti che miravano un po' alla riqualificazione del quartiere attraverso quello che è l'arte, lo sport, perché è quello che facciamo noi. Ok, via le sbarre.